Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Caso Gregoretti, vogliono eliminarmi per via giudiziaria, ma io non scappo. Parte al Senato il dibattito sulla richiesta di processo per Matteo Salvini. Coronavirus, l'epidemia continua a crescere in Cina, oltre 45.000 contagi. Per il Salone del Mobile a Milano si annunciano 30.000 visitatori cinesi in meno. Air Italy in liquidazione, a terra gli aerei, 1.500 dipendenti, oggi i vertici della compagnia convocati al Ministero dei Trasporti. Preti sposati, l'esortazione finale di Papa Francesco sull'Amazzonia è una frenata, nessuno spiraglio. In questa puntata andremo anche a Genova, dove viene montato l'impalcato da 100 metri, il più lungo sul nuovo ponte sul Polcevera. Nuova spina nel fianco invece per Boris Johnson, la Scozia chiede il referendum per l'indipendenza da Londra. E poi i dati dell'Internet Safer Day di ieri, la nuova droga tra i giovanissimi e la caccia di like sui social network. 13 un minuto, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie a metà giornata. Tutti i titoli principali da qui alle 13.15, poi dalle 13.15 i nostri approfondimenti. Come sempre cominciamo con la pagina politica, perché è iniziato al Senato il dibattito sulla richiesta di processo nei confronti dell'ex ministro Matteo Salvini. Lo sapete, per il caso Gregoretti, la nave della Guardia Costiera che aveva 130 persone a bordo e venne cui fu negato lo sbarco per 6 giorni, era il luglio dell'anno scorso. Allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Eh sì, così, buongiorno. Nell'aula di Palazzo Madama dunque l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. All'ex ministro dell'Interno il Tribunale dei Ministri contesta l'ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio del 2019. Il voto, lo ricordiamo, sarà elettronico, palese e a maggioranza assoluta dei componenti. Si avrà subito però la percezione immediata dell'esito attraverso il tabellone luminoso, ma il dato definitivo arriverà non prima delle 19, quando si chiuderà il voto stesso. I numeri al Senato dovrebbero portare Salvini a processo. Tutta la maggioranza si esprimerà in tal senso. Nell'opposizione contrari Forza Italia e Fratelli d'Italia. I senatori della Lega dovrebbero uscire dall'aula. Ho scelto di andare davanti a un tribunale, ha spiegato poco fa lo stesso Salvini. Sentiamo le sue parole. E siccome sono stufo di essere inseguito da mesi, di essere calunniato da mesi, di essere minacciato da mesi da parte del PD e della sinistra, ho scelto io, contro il mio interesse, contro la mia convenienza, contro il mio quieto vivere, di andare in un tribunale, confidando nella terzietà della magistratura, perché ritengo che quello che ho fatto sia stato nell'esclusivo interesse del popolo italiano, dei miei figli, degli immigrati regolarmente presenti nel nostro paese. Sono orgoglioso di aver salvato migliaia di vite umane. Queste dunque le parole di Salvini poco fa al Senato, critiche dalla Lega anche al Premier Conte. Lui, l'avvocato vero di Salvini, non sono io, ha detto Giulia. Buongiorno e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E adesso in primo piano restano ancora naturalmente le notizie sul coronavirus, ribattezzato ieri Covid-19. Sono 45.000 i contagi e oltre 1.100 i morti, il 95% dei quali ancora concentrati nell'area di Wuhan, epicentro, come sapete, dell'epidemia. Facciamo il punto allora anche su queste notizie con Adriana Fracchia. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Come hai già accennato tu nell'ultimo aggiornamento, diciamo, per quanto riguarda l'epidemia da coronavirus che non si arresta, l'ultimo aggiornamento parla di 1.115 morti, di cui 1.068 nella sola provincia cinese di Hubei, epicentro dell'epidemia con capoluogo Wuhan. Gli infettati, come dicevi, invece sono saliti ad oltre 45.000. Due sono finora le vittime accertate fuori dalla Cina, una a Hong Kong e una nelle Filippine. Aumenta però al 10,6% la percentuale di pazienti guariti rispetto all'1,3 del 27 gennaio scorso. Per gli scienziati di Pechino il picco dell'infezione verrà raggiunto a fine febbraio. Si registrano però intanto altri 39 casi di coronavirus sulla nave ferma in quarantena Yokohama in Giappone, portando così a 174 il numero complessivo dei contagiati. È invece in buone condizioni l'italiano rientrato da Wuhan con il coronavirus, non ha la febbre e continua la terapia antivirale allo Spallanzani, dove sono ricoverati anche i 2 cittadini cinesi contagiati provenienti sempre da Wuhan. Le loro condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Per l'OMS questa epidemia è una minaccia peggiore del terrorismo e gli esperti stimano però che un vaccino non sarà disponibile prima di 18 mesi e soprattutto pensano comunque che ci sarà un picco a febbraio, probabilmente con le alte temperature questo virus dovrebbe piano piano attenuarsi. Oggi il Papa alla fine dell'udienza generale ha rivolto una preghiera ai fratelli cinesi che soffrono per questa malattia così crudele. Infine, una notazione che riguarda il mondo dello sport: il Gran Premio cinese di Formula 1 previsto a Shanghai per il prossimo 19 aprile sarà rinviato, sembra quindi esclusa l'ipotesi di un annullamento completo. E per il momento è tutto. Grazie Adriana. E tra le conseguenze sociali ed economiche del coronavirus ci sono anche i grandi eventi, come per esempio quello che è stato annunciato oggi, uno dei più importanti della primavera per quanto riguarda il nostro paese, vale a dire il Salone del Mobile di Milano, che richiama centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Che cosa succederà in questa edizione in tempi di coronavirus? Sentiamo. Il salone riparte, saremo pronti tra 2 mesi, sappiamo qual è la situazione in Cina e sapremo gestirla. Così il presidente Claudio Luti presenta la 59esima edizione del Salone del Mobile dal 21 al 26 aprile a Milano. Dopo il record lo scorso anno di quasi 400.000 visitatori, per quest'anno sono stimati numeri più bassi, vista anche la mancanza dei cinesi, 30.000 nel 2019, sottolinea Luti. Quest'anno ce ne saranno meno, vedremo come saranno le situazioni, come andrà. Credo che sia una cosa da monitorare e seguire le decisioni del governo europeo e del governo nostro. Se non potranno partecipare, rafforzeremo il digitale. L'organizzazione deve andare avanti. Ci prepariamo per Mosca e Shanghai, aggiunge il numero uno del salone, dove sono attesi più di 2.200 espositori, il 35% esteri. Ottimista Emanuele Orsini di Federlegno. Oggi a noi serve fiducia. Noi dal governo avevamo bisogno di essere aiutati, incentivati a portare nuovi paesi per far sì che comunque i nostri associati possano vendere al meglio i loro prodotti. Certo, le aziende sono preoccupate. Secondo Federlegno, quello che serve è una spinta al sistema paese. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo invece alla difficoltà di Air Italy. La compagnia aerea ha fallito il piano di rilancio del 2018, ha accumulato perdite per oltre 200 milioni di euro, si ferma e finisce in liquidazione. Per questo oggi il Ministero dei Trasporti ha convocato i vertici della compagnia. Sentiamo. Il governo è irritato. La liquidazione di Air Italy, decisa dai soci Alisard e Qatar Airways senza coinvolgere le istituzioni, non convince. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli lo ha ribadito ai commissari liquidatori della compagnia e ha chiesto loro di esplorare vie alternative alla liquidazione per garantire lavoratori e voli. Air Italy è ferma, voli bloccati da ieri, con riprotezione prevista per chi ha biglietti fino al 25 febbraio su voli di altre compagnie. Per chi ha voli prenotati dopo il 25 febbraio sarà invece possibile scegliere tra riprotezione o rimborso del biglietto. Una perdita per il 2019 stimata in 230 milioni e la mancata prospettiva di miglioramento hanno spinto i soci a mettere in liquidazione la compagnia. A rischio ci sono 1200 posti di lavoro. I lavoratori vanno all'attacco. Non ci rassegniamo, dice Marco Bardini dell'ANPAV Sardegna. La situazione da noi denunciata da mesi fa solo ribollire il sangue ai 1200 lavoratori, di cui 500 sardi, dice, che sarà impossibile ricollocare in un tessuto economico tra i più poveri d'Europa. Per Bardini è necessario attivare subito un tavolo interministeriale per mettere in sicurezza lavoratori e famiglie fino a che non sarà trovata una soluzione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora un'agenzia di pochi minuti fa che ci racconta gli sviluppi del caso di Patrick George Zaki, lo studente egiziano che studiava in Italia e che al rientro in Egitto, come sapete, è stato fermato con delle pesanti accuse e che senza giudizio è ancora in stato di detenzione. Ebbene, c'è la dichiarazione di un suo amico: sono stato rapito dalle forze di sicurezza statali in Egitto, interrogato per 35 ore, dice Amr, cittadino egiziano di 29 anni, raggiunto dall'ANSA, dice: sono stato interrogato, non ho subito alcun elettroshock, ma sono stato picchiato, bendato e legato. Mi hanno privato del sonno, hanno cercato di distorcere il tempo. Questa è appunto la testimonianza di Amr, che è un amico di Patrick George Zaki, che vive, lavora a Berlino, arrestato venerdì al Cairo, anche lui a rientro in Egitto e tuttora detenuto. E con la cronaca veniamo in Italia. A Pomezia sono apparse nuove scritte contro gli ebrei davanti a due scuole, invece nel Salento intimidazioni nei confronti del sindaco di Soleto in provincia di Lecce, purtroppo non è un caso isolato. Una forte esplosione ha scosso alle 11 di ieri sera i 5.000 abitanti del piccolo comune di Soleto, provincia di Lecce. L'ordigno rudimentale è esploso sulla porta dello studio da commercialista, in quel momento vuoto, di Graziano Vantaggiato, che è anche sindaco della cittadina. «Per me è un fulmine a ciel sereno», dice a un giornale locale. «Non so spiegarmi il gesto». Sul fatto indagano polizia e carabinieri, ma purtroppo non è un fatto isolato. L'osservatorio intimidazioni del Ministero dell'Interno segnala che le minacce e intimidazioni a sindaci e amministratori locali sono circa 600 all'anno, più o meno stabili. Anzi, nei primi 9 mesi del 2019, ultimo dato, sono aumentate dell'11%. La Puglia è la terza regione più colpita. Nelle settimane scorse lettere minatorie sono arrivate al sindaco di Cellamare, Bari, e nel mirino ci sono anche i comuni di Bisceglie e di Parabito. Le intimidazioni arrivano non solo ai sindaci del sud, anzi la Lombardia è spesso in cima alla lista. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Papa Francesco chiude definitivamente all'ipotesi dei preti sposati, un'ipotesi che era emersa durante il sinodo per l'Amazzonia. Nell'esortazione che tira le fila del sinodo, il Papa ribadisce il grido di allarme per l'Amazzonia, alle prese con un disastro ecologico, depredata legalmente ed illegalmente. In un paese dove l'annuncio del Vangelo deve necessariamente seguire la via dell'inculturazione dal timbro fortemente sociale e che patisce una grave carenza di sacerdoti, urge una risposta specifica e coraggiosa dalla Chiesa, scrive Francesco. Risposta che però non è quella indicata nel documento votato a maggioranza dai vescovi nel sinodo. Non si parla infatti dell'ordinazione di laici sposati, per il momento resta il celibato per i sacerdoti, ma si sottolinea la necessità di un maggiore ruolo dei laici stessi anche nel celebrare alcuni sacramenti. Nessuna svolta anche per le donne. Il Papa invita a non pensare che solo se si desse loro accesso all'ordine sacro ci sarebbe una maggiore partecipazione nella Chiesa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, Effetto Giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, andremo a Genova dove viene montato l'impalcato, era tutto pronto per montare l'impalcato più grande, quello da 100 metri che dovrebbe così far fare un passo in avanti importante alla costruzione del nuovo ponte sul Polcevera. E poi ancora i dati dell'Internet Safer Day di ieri che sono passati un po' sotto silenzio, ebbene giovani che sembrano meno iperconnessi che in passato, ma che sono alle prese con una vera nuova droga che è la caccia dei like sui social network. Questo tra poco. 349-238-6666 per commentare la giornata di oggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Che stabilimento, ecco perché la manifattura italiana è la seconda in Europa. Complimenti! Grazie, ma per crescere dovremmo investire di più. Hai già chiesto al gruppo Finservice? Mi hanno fatto ottenere i miei primi contributi a fondo perduto. Hanno 300 consulenti e ogni anno aiutano migliaia di aziende manifatturiere italiane ad accedere a tutti i contributi a fondo perduto che aspettano solo di essere richiesti. Ma ne avremo diritto? Vedrai che vi spettano. Chiedi conferma al gruppo Finservice. Da 20 anni leader nella finanza agevolata. Gruppo Finservice. Zero promesse, più contributi. Gruppofinservice.com. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Caso Gregoretti, parte al Senato il dibattito sulla richiesta di processo per Salvini, che dice vogliono eliminarmi per via giudiziaria ma io non scappo. Coronavirus, oltre 45.000 contagi, l'epidemia continua a crescere in Cina, conseguenze anche per il Salone del Mobile in Italia. Ad aprile si prevedono 30.000 visitatori in meno. Pomezia, nuove scritte antisemite davanti a due scuole. Preti sposati, l'esortazione finale di Papa Francesco sull'Amazzonia è una frenata, nessuno spiraglio. A Genova tutto pronto per l'impalcato da 100 metri, il più lungo del nuovo ponte sul Polcevera, Effetto Giorno, la cronaca in diretta con il commissario Toti. 13:17, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Dunque, come avete appena sentito, ci colleghiamo con Genova, con il presidente della Regione Liguria, commissario anche per l'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi, Giovanni Toti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, era tutto pronto, è tutto pronto oggi per il montaggio del più grande impalcato, l'abbiamo già detto anche nei titoli, l'abbiamo anticipato, la trave da 100 metri che deve essere issata, se abbiamo capito bene, tra le pile 8 e 9. Allora, com'è la situazione? Perché c'era un problema di vento, ma anche un problema tecnico forse. No, ma è stato tutto risolto, è normale, è una delle lavorazioni più complesse del cantiere del ponte, di qua la sua chiusura prevista, diciamo, entro la primavera, la salita in quota, il varo, come sì, si dice tecnicamente, di questa trave, questa travatura la più lunga, quella che attraverserà il fiume Polcevera, quindi di fatto ridarà lo skyline della Val Polcevera con il ponte sostanzialmente concluso. È un'attività complessa, non salirà con l'ausilio di due gru come gli impalcati più piccoli, quelli da 50 metri, ma con i famosi strain jack, cioè verrà tirato su piano piano, appoggiato al resto del ponte. Sarà un lavoro che dura, diciamo, 10, 12, 13 ore, quindi è un lavoro molto complicato, servivano condizioni meteorologiche favorevoli, ovviamente tutte le verifiche a terra di una trave che poi, una volta messa in quota, non verrà più toccata, verrà cementata e poi certo, asfaltata. Ma la questione dei centimetri, dei pochi centimetri di, diciamo, di maggiore lunghezza, non è risultata rilevante. Non è risultata rilevante. Ma è stato limato effettivamente l'impalcato? Ora, io non vorrei dire delle definizioni tecniche di lavori su quella trave che francamente non mi sento in grado di dare. So che ci hanno lavorato nelle giornate di ieri, l'altro di ieri, tutti, compresi Rina, che sono il controller del cantiere, poi evidentemente tutte le aziende. A pochi minuti fa, diciamo un'oretta fa, dal cantiere è arrivato l'okay, al posto, alle 15 cominciamo a salire. Alle 15 comincerà a salire. No, io chiaramente neanche noi siamo esperti di questioni tecniche, quello che era stato scritto sui giornali, che c'erano questi centimetri di troppo, naturalmente è un'operazione complessa, lei ce l'ha, Toti ce l'ha raccontata benissimo, anzi oggi l'abbiamo fatto fare anche il lavoro, diciamo, di cronista da questo punto di vista, che tra l'altro è anche il suo ex lavoro, Toti. Giornalista, il mio lavoro, prima o poi ci tornerò, se mi tenete allenato ne sono felice. Ecco, questo può essere utile, ma anche perché è un momento. Sono alle 17:30 con il sindaco Bucci, che è il commissario della ricostruzione, tutti i tecnici, credo che ci sarà anche l'amministratore delegato di Fincantieri, che poi è una delle due aziende che compongono poi quell'azienda per Genova che sta costruendo il ponte, che è un agglomerato di impresa che vede dentro Fincantieri, come sapete, Salini in pregilo. E io credo che entro questa settimana dovrebbe salire un'altra degli impalcati, la settimana prossima viene completato completamente, diciamo, la pilastratura del ponte. E quindi si annuncia rispetto dei tempi previsti un leggero allungamento, quando potrebbero essere chiusi i lavori? C'è stato un leggero allungamento legato alle condizioni meteorologiche proibitive di quest'inverno, uno che, come sapete, è stato il più piovoso della storia della Liguria, e poi in origine, come è noto, c'è stato uno slittamento dei tempi della demolizione legato alla presenza d'amianto. Dell'amianto, in questo certo momento stiamo rispettando i tempi, direi, all'ora, quindi benissimo. Senta, Toti, qualcosa prima alla fine di tutta la struttura, quindi il ponte finito, e poi ci saranno circa altri due mesi, immagino, vado a spanne per il collaudo di opere murarie, quindi cemento, asfaltature, gersi e quant'altro, e poi il collaudo definitivo. Senta, Toti, è questo un momento, mi faccia fare la domanda, però, perché vabbè che è abituato a fare il giornalista, però mi faccia fare la domanda, in questo caso la faccio io la domanda, che è questa. Intanto, per sottolineare che questo è un passaggio comunque storico, importante, il nostro paese sta rispettando, e questo è un risultato positivo per tutti, dobbiamo riconoscercelo. A parte questo, a parte, diciamo, le note positive, invece le voglio fare una domanda. Lei, come commissario dell'emergenza, il nuovo numero uno di Autostrade ha detto che vorrebbe incontrare i familiari delle vittime del ponte. Il governo non ha ancora invece deciso se procedere con la famosa revoca oppure con una trattativa con Autostrade che possa, diciamo, portare a un miglioramento della concessione come è stata fino ad ora. Lei, delle due strade, le chiedo, quale auspica, quale ritiene più percorribile? Un inizio di riconciliazione o andare avanti, diciamo, per le vie legali? La metto giù così brutale, ma il concetto è chiaro. Rapidissime. La prima, Autostrade, se incontra i parenti delle vittime, questo dipende dai parenti delle vittime. Era un incontro spessissimo, sono una comunità coesa a cui siamo molto vicini e aspettiamo con loro di sapere verità e giustizia. Secondo, il governo scelga, perché sta diventando grottesco questo tira e molla che dura da un anno e mezzo sulle concessioni, e sta diventando dannosissimo perché legate alla concessione ci sono investimenti strategici per questa regione e per il paese di miliardi di euro che potrebbero rappresentare prodotto interno lordo, posti di lavoro, modernizzazione del paese, ed è tutto bloccato. Terzo, sì, ho già detto al governo che noi siamo disponibili come regione, così come Lombardia, Veneto, Friuli hanno una loro concessionaria autostradale, ad essere nella partita e prendersi in carico un pezzo di questa rete autostradale, purché il governo si assuma la responsabilità di decidere. Chiaro, chiarissimo. Grazie Giovanni Totti per essere stato con noi. Ospitalità, buona giornata. Buona giornata. Questa dunque la pagina legata all'andamento dei lavori, diciamo oggi una giornata particolarmente importante per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera a Genova. Adesso invece riapriamo una pagina e cercheremo di farlo, non dico tutti i giorni, ma insomma molto spesso, dedicata ai diritti umani e al caso di Patrick George Zaki, lo studente egiziano che studiava in Italia, rientrato in Egitto, arrestato con dei pesanti capi di accusa, ma insomma, secondo tutti quelli che lo conoscono e secondo le associazioni internazionali si tratta di una nuova violazione pesante dei diritti umani da parte dell'Egitto, un arresto più di una settimana di un ragazzo senza un capo di imputazione e soprattutto senza la sentenza di un magistrato, cosa che in Egitto, come ci racconta Amnesty International, che anche oggi abbiamo sentito, è la norma in questo paese. Vi abbiamo reso conto dell'ultima ora della notizia, cioè dell'arresto di un altro ragazzo egiziano, un amico di Patrick Zaki, Amr, che è stato intervistato dall'AMSA, non so in quali circostanze, e dall'AMSA è appunto confermato di essere stato arrestato anche lui nello stesso modo di Zaki. Allora sentiamo il punto con Cristina Carpinelli. Patrick George Zaki è stato bendato, ammanettato e interrogato con minacce, colpi alla schiena, allo stomaco, scosse elettriche per oltre 17 ore. E quanto racconta il suo avvocato sul ragazzo 27 anni egiziano che a Bologna seguiva un master europeo sugli studi di genere, era stato emesso un mandato il 24 settembre dal Cairo, ma nessuno lo avrebbe comunicato né a Zaki né alla sua famiglia. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International. Ma questo è tipico dell'Egitto di Al-Sisi. C'è una linea costantemente mutevole che si oltrepassa inconsapevolmente, quando la si oltrepassa si finisce nelle maglie di quel sistema repressivo. La richiesta che stiamo facendo alle autorità egiziane nell'immediato è di garantire tutti i diritti procedurali, dunque pieno accesso agli avvocati e ai familiari, cure mediche se necessarie, e all'Italia chiediamo di monitorare molto bene la situazione in vista di una presenza anche significativa di osservatori dell'Unione Europea, Italia inclusa, all'udienza del 22. In tutta Europa la comunità accademica si mobilita, Amnesty International in poche ore ha raggiunto 35.000 firme a sostegno della liberazione di Zaki. A Berlino è stato creato un account social e una rete online per divulgare informazioni, ed è lì che la famiglia ha pubblicato una dichiarazione ufficiale. Non riusciamo a comprendere le accuse mosse a Patrick, scrivono. Nostro figlio non è mai stato fonte di minaccia o pericolo per nessuno. Secondo l'avvocato, al ragazzo sarebbero state fatte domande, soprattutto su Regeni. Ancora Nuri. È sotto l'attenzione eventuali rapporti con la famiglia Regeni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Minuti. Torniamo a parlare della Brexit, da poco archiviata, che continua però ad avere delle conseguenze. L'ultima ieri la premier scozzese Nicola Sturgeon ha detto che la Scozia è pronta ad un referendum per l'indipendenza da Londra, un altro, anche senza la volontà della controparte, cioè di Londra. Un percorso difficile ma un annuncio importante. Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Alessio. Ben ritrovato. Una nuova spina nel fianco di Boris Johnson, però questa senz'altro, che si aggiunge al voto irlandese, Sinn Féin, primo partito, quindi una spinta anche lì alla, diciamo, al nazionalismo irlandese, alla riunificazione, ma ne parliamo tra poco, con la provincia nord irlandese sotto controllo britannico. Però sulla Scozia cosa c'è da dire? C'è da dire che chiaramente la Brexit vera e propria ha dato una spinta molto forte ai nazionalisti che, ricordiamo, il 12 dicembre nelle elezioni anticipate hanno colorato di giallo la mappa scozzese, che quindi sono di fatto il partito scozzese, che continuano, ma questo in realtà già lo stanno facendo da diversi mesi, a chiedere a gran voce un referendum, un secondo referendum di indipendenza, perché qualche anno fa c'è già stato il primo, dove prevalse di pochissimo la scelta di restare all'interno della Gran Bretagna. Però poi qualcosa è cambiato. È stata la Brexit che ha cambiato tutto, perché il referendum scozzese era precedente alla Brexit. Alla fine tutto questo, se vogliamo, è un po' figlio del periodo di David Cameron alla presidenza, come primo ministro britannico, certo, che fece i due referendum. Il primo lo vinse di poco, il secondo, quello su Brexit, lo perse, e quindi tutto alla fine si incanala in quella direzione. Possiamo dire che Brexit, di fatto minacciando un allontanamento dall'Europa per una nazione come la Scozia, che invece ha votato per restare in Europa, è di fatto, così dice Nicola Sturgeon, un tradimento della volontà popolare scozzese. Si apre un solco ancora di più, e quindi si apre un solco, anche se poi appunto Nicola Sturgeon ha poi detto anche più volte che non intende, che so, aderire all'euro, ma tenersi la sterlina. Però chiaramente il suo obiettivo, l'ha detto chiaramente, è staccarsi, possibilmente, se un referendum lo decidesse, dalla Gran Bretagna e rientrare nell'Unione Europea. Ora, il fatto che dica che non escluda più un referendum unilaterale apre uno scenario catalano, però, a questo punto. Questo non dimentichiamocelo, perché finora gli scozzesi hanno cercato di tenere una linea più prudente, dicendo comunque lo concordiamo, fatecelo fare nell'arco di 1-2 anni, però insomma insieme, concordandolo insieme. Il fatto che ora dica lo potremmo anche fare in modo unilaterale apre un secondo scenario catalano, con tutti gli annessi e connessi. Non dimentichiamo quanto poi la situazione a Barcellona, ricordiamo tutti il referendum del 1 ottobre 2017, abbia portato a violenze e a una grandissima crisi politica. Ci sono ancora una decina di attivisti e politici catalani in carcere per questo. Ecco. Sergio Nava, grazie, è stato esauriente. Ci sarà tempo per capire se si aprirà uno scenario catalano anche per la Scozia. Intanto questo solco, se abbiamo capito bene, letto bene dai giornali, Boris Johnson, quello con l'Irlanda, a dir la verità, cerca di come dire, colmarlo con l'ipotesi di un ponte, di cui oggi i giornali parlano, un ponte addirittura di 45 chilometri. Siamo adesso in una fase un po' particolare. Boris Johnson ha anche approvato ieri il gabinetto britannico un progetto per un treno ad alta velocità. Sì. Sta lanciando, come dire, è un po' la spacca, perché da un lato Boris Johnson sta dicendo usciamo all'Europa e torniamo ad essere un paese prospero, libero, indipendente, con pezzi, investimenti. Dall'altro c'è lo scenario peggiore, cioè una Little Britain, una piccola Britannia, una piccola, o meglio Little England, una piccola Inghilterra, che fuori si disgrega e indebolita. Quindi sta giocando su questo crinale, successo totale o fallimento totale. Staremo a vedere, ce lo dirà la storia. Grazie Sergio Nava. 13:30, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666 con i dati interessanti, molto interessanti, dell'Internet Safer Day di ieri, passati un po' in sottosilenzio, nei quali si analizza il rapporto tra i giovani, le nuove tecnologie, internet, i social network soprattutto, e ci sono anche delle piccole sorprese. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Caso Gregoretti, parte al Senato il dibattito sulla richiesta di processo per Salvini, che dice vogliono eliminarmi per via giudiziaria, ma io non scappo. Coronavirus, l'epidemia continua a crescere in Cina, oltre 45.000 contagi. Per il Salone del Mobile si annunciano 30.000 visitatori in meno. Pomezia, nuove scritte antisemite davanti a due scuole. No ai preti sposati nell'esortazione finale sull'Amazzonia, Papa Francesco chiude ogni spiraglio. Giovani un po' meno connessi, ma schiavi dei like sui social, la nuova droga tra gli under 18. Tra poco i dati dell'Internet Safer Day con la professoressa Ersilia Menesini. minuti, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che chiede una rettifica, perché sostiene che sia Bucci, il sindaco di Genova, e non Toti, il commissario per la ricostruzione. Ed è vero, è il commissario per la ricostruzione del ponte è Bucci, Toti è commissario con una delega per la per l'emergenza, che è un altro discorso, dopo il crollo del ponte Morandi, quindi è un altro diciamo commissario, quindi non c'è nessun errore. Poi invece ci sono un paio di messaggi di ascoltatori che se la prendono col fatto che ci siamo occupati del referendum, della richiesta di referendum della Scozia per l'indipendenza da Londra, dicono che facciamo propaganda europeista. Cari ascoltatori, e uno in particolare che ci accusa proprio di fare propaganda, mi accusa, è una buffonata questa, il referendum c'è già stato, eccetera eccetera, e qui ve lo dico proprio così, con il sorriso e con gentilezza, però dovete fare pace con il vostro cervello, perché non è che siamo noi a fare propaganda, è il premier scozzese che ieri ha detto che vuole fare il referendum, quindi questa è la questione. Poi ve la potete prendere con me, ma dovete prendere prima di tutto con lei, con la premier Sturgeon, che ha detto questo. E va bene, è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, come ogni giorno a quest'ora. Il punto di Alberto Orioli. Dopo il forcing renziano, il governo ha deciso di affidare a un disegno di legge la revisione della riforma Bonafede e del suo famigerato capitolo sull'abolizione della prescrizione. Il risultato concreto, per la verità, è che la riforma voluta dai 5 Stelle e dalla Lega ai tempi del Conte 1 rimane in vigore così com'è, con tutto quello che significa per chi abbia a che fare oggi con la giustizia. È evidente che l'obiettivo renziano di rendere visibile la sua battaglia politica ed immagine era superiore a quello di raggiungere effetti concreti. Forse è un copione, o forse no, forse è il prologo di un disimpegno in realtà. È certo che presto ci sarà un test importante sulla stagione delle nomine, che è pura battaglia di potere, ma anche su temi socialmente sensibili come il lavoro, che diventa battaglia di pura identità politica. I tavoli di confronto avviati da Conte diventano altrettanti ring per la battaglia sulla visibilità. I 5 Stelle difendono il reddito di cittadinanza e puntano al salario minimo. I renziani vogliono smontare il reddito di cittadinanza e difendere il Jobs Act. La sinistra di Leo vuole reintrodurre l'articolo 18 e smontare il Jobs Act. Italia Viva e il PD vogliono ridurre i vincoli del decreto dignità di Di Maio sui contratti a termine, mentre i 5 Stelle li considerano la linea del Piave. Insomma, se il governo dura, il meglio deve ancora venire. E allora, dagli scenari di Alberto Orioli ad una notizia che è di ieri, in occasione dell'Internet Safer Day sono stati diffusi dei dati, giovani meno iperconnessi che in passato, e però attenti a temi come la privacy, le fake news, il cyberbullismo, e queste sono le buone notizie, però che sono sempre più sotto pressione per la necessità di pubblicare delle cose sui social network che ricevano tanti mi piace. E questo è il ritratto che emerge da una ricerca condotta da Generazioni Connesse in occasione appunto della giornata di ieri, coordinata dal Ministero dell'Istruzione, Scuola Net, l'Università di Roma e quella di Firenze. Notizie che, a mio modo di vedere, sono forse passate anche un pochino sotto silenzio, sotto traccia. Con noi la professoressa Erzilia Menesini, che dirige il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Allora, io inizierei dalle buone notizie, diciamo così, almeno dal punto di vista dei genitori apprensivi. Stare sui social, stare su internet di per sé non è negativo, però sappiamo che ci sono anche record di ore e ore, e le statistiche ci dicono che ci stiamo, noi adulti e anche i bambini, i ragazzi, tante ore. Quindi la prima buona notizia è che c'è forse una diminuzione del tempo, comunque una spinta a essere un pochino meno connessi nei giovani. Come si spiega e qual è questo dato, professoressa? Ma direi, forse possiamo dire che sembra emergere un uso più equilibrato delle nuove tecnologie, perché mentre nei dati del 17 e anche del 2018 sempre connesso era costituito da circa il 21% dei ragazzi, oggi essere sempre connesso è sceso al 7%, quindi significa che quella fetta di ragazzi che in qualche modo forse dimostra più dipendenza dalle nuove tecnologie si sta riducendo. Certo, una larga parte dei ragazzi continua ad essere connesso per 3-4 ore, circa il 46%, o per 5-10 ore, però è molto interessante sottolineare come dire, ci sia una riduzione di quella fetta di popolazione forse più vulnerabile, più a rischio rispetto a problematiche anche di dipendenza, di esclusione, di isolamento, come a volte può accadere nel caso di un uso troppo pervasivo delle nuove tecnologie e della rete. L'altro dato interessante riguarda il fatto che alcuni social stanno in qualche modo diventando meno rilevanti per le nuove generazioni, ad esempio Facebook è pressoché scomparso. Sì, dai radar proprio dei giovanissimi, sì, non gliene frega più niente. Mentre mantiene un'alta rilevanza WhatsApp, YouTube anche, quindi tutta la dimensione legata all'immagine, ai video, e sta cominciando a comparire anche dei nuovi applicativi come TikTok, ad esempio. Ecco, bisogna anche tenersi aggiornati, parlo per noi adulti. A proposito di YouTube, professoressa, leggo che a un giovane su tre piacerebbe diventare YouTuber, per esempio, e così come ci sono statistiche sulla ossessione per i like. Ora, su questo è stato scritto molto, è stato detto che siano una vera e propria droga, che ci sia un rilascio addirittura di dopamina nel momento in cui si ricevono delle notifiche e dei like, anche per gli adulti. Ma che cosa accade nei ragazzi, nei giovani che hanno una personalità non ancora completa, non ancora matura, se si mettono in atto questi meccanismi di vera e propria, mi verrebbe da dire, droga, uso questa parola, però dica lei. Sì, allora credo che sul versante, diciamo, degli influencer e dell'ammirazione che i ragazzi provano verso alcuni influencer, c'è sicuramente una fetta di ragazzi che è un aumento del 31% che appunto esprime un interesse a diffondere le proprie idee attraverso messaggi, video creativi, però dall'altro c'è solo un 17% che è in grado di farlo, quindi comunque c'è un gap tra, diciamo, l'ammirazione che tra molti sogno ragazzi, e realtà, uno come su tre, accade spesso, diciamo, cioè. Uno su tre comunque esprime questa forte attrazione verso queste figure che sicuramente hanno un peso nella loro vita quotidiana oggi, però dall'altro solo metà di questi riesce in qualche modo a farlo in autonomia, quindi c'è bisogno probabilmente di potenziare anche queste capacità o competenze che potrebbero consentire ai ragazzi di usare appieno un canale di comunicazione importante, anche di affermazione di sé. E per poi l'aspetto, c'è l'altro aspetto, sì, dei like, invece dei like, della reputazione. Cioè, noi abbiamo chiesto in questa intervista sia quanto, diciamo, i social e la rete consentisse loro di sentirsi in qualche modo inserito in una rete sociale, e questo per un 60% dei ragazzi è vero, cioè in qualche modo appartenere a una rete di amici anche dal punto di vista virtuale potenzia questo senso di appartenenza. Però dall'altro il lato negativo della medaglia è che circa il 50%, 60% mette in evidenza come appartenere anche ad una rete li fa sentire sotto pressione, perché devono in qualche modo o esprimere il loro apprezzamento, quindi quello che appunto lei diceva, la necessità di dare sempre dei like o comunque di essere presenti, visibili nella rete in relazione agli altri, oppure anche di postare tutta una serie di messaggi che in qualche modo possono mantenere la reputazione e far vedere che appunto la tua presenza è interessante. Per cui c'è da un lato questa dimensione sociale che sicuramente viene rafforzata, dall'altra però anche spesso una sorta di trappola in cui i ragazzi si sentono, perché appunto in qualche modo appartenere ad una rete di amici significa poi far vedere spesso la tua presenza attraverso anche tutta una serie di segnali comunicativi online come like, oppure postare cose che possono suscitare attenzione negli altri. Per cui, diciamo, di nuovo gli aspetti positivi e negativi della rete che ritroviamo. Professoressa Menesini, così grazie. Come sul cyberbullismo devo chiudere, mi scusi, forse non mi sentiva la professoressa, ma dobbiamo chiudere perché abbiamo un'informazione sul traffico, dobbiamo dare la linea, e insomma questa questione dei like, dei mi piace, sicuramente da monitorare. Io parlo dal punto di vista, sono genitore di due bambini, poi magari anche da relativizzare, perché si può anche non piacere, no? Anche non piacere può essere un modo per distinguersi, perché no?